24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. So anch'io che c'è tanta gente che preferisce un passerotto in mano piuttosto che il tacchino sul tetto. Ho impiegato un mese per capire la storia del passero e del tacchino, quella di Bersani. Cioè, l'ha capito? Farò un master in bersanese. Quanto siamo stati lungimiranti a scegliere questa sigla, e noi la scegliemmo così perché era simpatica, passerotti, tacchini. Ma qua, cari ascoltatori, c'è un paese che si interroga. Oh, ma avete capito cosa è successo? Bene? Avete capito intanto che queste consultazioni hanno portato a nulla, e quindi ieri un affronto per Luigi Bersani, la faccia di Bersani quando è uscito dalle consultazioni del Quirinale, la diceva tutta, e ora tutto in mano a Re Giorgio Napolitano. In pratica Bersani non è che è fuori dai giochi, è in stand-by, ma il concetto è: hai ricevuto il CAI, il WWF, Legambiente, Saviano, Don Ciotti, i partiti, le istituzioni, ma non ce l'hai fatta, quindi ci penso io ora, ci penso io, Giorgio Napolitano. Vabbè, apriamo il nostro Parlamento. Oggi è una via crucis nella quale c'è Nicole Minetti. Sì. Il caffè volentieri ecco. A tutti quanti. Parlamento. Meno male. Forza, gente, accorrete al Parlamento. Al Parlamento tutti quanti. E oggi è il giorno decisivo, si dice sempre così, ma pare che Napolitano voglia fare consultazioni lampo. Oggi vedrà Berlusconi e Berlusconi andrà personalmente, il Movimento 5 Stelle, il PD, Scelta Civica, tutti. E poi a sera, in questa via crucis darà la soluzione che si spera possa essere la soluzione. Allora, intanto io voglio salutare il vice direttore di Libero, Massimo De Manzoni. Buongiorno, ben ritrovato. Eccoci. Buongiorno. Oggi Libero titola così: Che pensi mi? Devo svelare una cosa. Ieri Massimo, è lo stesso titolo che ho pensato io. Quando ho visto Napolitano ho detto Che pensi mi? Però vabbè, è molto milanese, non è napolitano, dice che milanese, ma così c'è un eco anche di Berlusconi, berlusconiana, eccolo lì. Lo rimette un po' nei giochi, no? Bersani sì. L'aveva escluso da principio, chiaro. Eccolo, lo rimette adesso nei giochi. Allora, Massimo, ti presento subito una persona molto amica di Berlusconi, no? Il nostro mito, il presidente dell'Osservatorio Asia, Alberto Forchielli. Buongiorno, Forchielli. Buongiorno. Dove si trova? In partenza per gli Stati Uniti, credo. Sì, ma parto a mezzogiorno, sono ancora a Monaco di Baviera, no? Monaco, sì, quello sì, sì. Dei principini. No. Allora, ecco, voglio fare sentire a Forchielli e a De Manzoni il Forchielli di lunedì, perché lunedì Forchielli ci aveva dato la sua analisi, come al solito, molto tranchant su come potevano andare le consultazioni. Lui vorrebbe andare alle Camere, dice, con delle proposte, e poi invece da altre voci ho sentito che Napolitano gli avrebbe detto: o mi porti i numeri certi oppure vai a cagare. Forchielli, ecco, come al solito, magari il tono sarà stato diverso, però è andata così evidentemente. Ah beh sì, Bersani è arrivata al Quirinale sui cerchioni, cioè non aveva niente da portare, come era scontato. E vabbè, però ha visto un po' tutti, ha visto CAI, WWF, Legambiente, eccetera, però dice no. Sì, ma non ha visto l'Automobile Club. L'Automobile Club mancava, quello sì, là. Poi non ha visto i Boy Scout e quindi le consultazioni non erano complete. È per quello che però c'è un nuovo giro, no? Qua si sorride, Forchielli, poi ci criticano, dico: voi sorridete, c'è il paese che va a picco, ma per carità, ma se non iniziamo anche con un sorriso, poi la questione è molto seria in realtà. Però ha sentito che De Manzoni dice che ora torna in campo Berlusconi, è inutile Forchielli che faccia le ironie, Bungasconi, cioè, è vero, oggi va il Quirinale, va a incontrare Napolitano. Non vedo l'ora di avere il nostro leader planetario che ci porterà nella stratosfera, perché noi italiani all'estero lo portiamo come una bandiera, ci rende fiero, la gente ci accoglie, i musulmani lo amano, gli indù lo amano, i cinesi lo amano, i puritani lo amano, per noi italiani all'estero Bungascone è un punto di riferimento, senza di lui ma dove andremo? Magistrati cattivi, De Manzoni, è così De Manzoni, il nostro Forchielli. Gli italiani all'estero, il problema è che ne votano pochissimi, gli italiani in Italia continuano a votarlo, ha un terzo dei voti e bisogna passare da lui nel momento in cui Grillo non vuole starci, per cui sì, per forza torna in campo. Torna in campo, tanto è vero che è la prima consultazione che farà Napolitano, perché tutto passa da lì, o ci si mette d'accordo tra quei due partiti oppure non c'è possibilità di fare un governo. Ma anche a leggere Spagna aveva delle strane idee in testa per le quali, avendo lui preso 100.000 voti più di Berlusconi, Voleva tutto. Ma infatti oggi i giornali, tutti in retroscena, sono questi. Pare che Napolitano si sia arenato il colloquio, un colloquio che, racconta il giornale, è stato improntato sempre a darsi del tu, ma è finito in tempesta subito quello tra Bersani e Napolitano. Si è impantanato perché Napolitano pare abbia detto a Bersani: voglio vedere io se davvero Berlusconi pone il Quirinale come questione prioritaria per appoggiare anche nel caso la nascita di un governo. E da qui, Forchielli, da qui nasce l'idea: Bersani, fatti un po' da parte, adesso ci penso io. Ha chiamato Berlusconi, che subito ha risposto: vengo domani, oggi si vedranno, per chiarire se davvero è questa cosa del Quirinale il punto di rimente. Beh, certo, perché per Berlusconi la posizione del Quirinale è una posizione di garanzia sul Consiglio Superiore della Magistratura. Ecco. Il suo vero problema non è non andare, capito, e non dover emigrare in Bielorussia, per cui lui ha bisogno del Presidente della Repubblica più di quanto abbia bisogno di un nuovo governo. Che cosa vuole? Ho 57 anni, di governi ne ho visti 65 io, capito? Cioè, dopo tre mesi, dopo due settimane comincia a litigare. Insomma, tanto vale che rimangano lo scudo, vuole lo scudo giudiziario, De Manzoni vuole questo, effettivamente. Vabbè, in un retroscena, ma di Repubblica, quindi di Repubblica dice: l'unico modo per fermare i giudici è andare al Quirinale. Questo è a questo che punta Massimo. C'è sicuramente anche questo. Beh, del resto non è che lo nasconda molto che lui ha dei problemi giudiziari e che ha dei problemi con i giudici, quindi c'è sicuramente anche questo. Ma poi c'è dell'altro, secondo me, ripeto, il PD sta cercando di prendersi assolutamente tutto con il minimo storico di voti che abbia preso un partito che ha vinto le elezioni in Italia, e questo è inaccettabile. Inoltre vorrebbe, pretenderebbe di essere votato anche dal PD, dal PDL, sì. Però dicendo: voi siete sporchi, brutti, cattivi, state dietro l'angolo, dateci solo i voti, non ne parliamo più. È chiaro che non è che sia una posizione. Sì, è chiaro che ma... però capire come se ne esce. Intanto, ma voi l'avete visto? Ma se ne esce in un modo solo, come? Mettendosi al tavolo e parlandone, oppure andando alle elezioni. No, non è che ce ne sono tanti. Ma no, le elezioni, ma io dico: ma come si fa ad andare alle elezioni a convincere? Ma lo dico anch'io. Cari italiani, voi andreste a rivotare? No, ma voi andreste a rivotare? Ma io non lo so, ma cioè, per carità. Ma bisogna dirlo a Bersani, è l'unico che vuole andare a rivotare, perché così non entra in campo Renzi. Parliamo un po' anche di quello che sta succedendo in quel partito. Renzi del perché Partito lui, Democratico. L'unico problema che c'ha Bersani è quello, tenersi un partito. Allora facciamolo sentire Renzi, ma partiamo da qualche anno fa. Vi ricordate la mitica partecipazione di Matteo Renzi? Ve la ricordate questa sigla? Comunque, questo è Mike Buongiorno, sentite. Per comprare una vocale, la A di Adone. 4. Era lui, la ruota della fortuna. De Manzoni, te la ricordi? Vorrei comprare una vocale. Renzi, perché partecipò alla ruota della fortuna. Adesso ci sono conveniva una consonante, perché è quella che gli manca poi. Ci sono le polemiche, perché torna in TV e Forchielli sa dove va Matteo Renzi sabato prossimo, e ci sono già delle polemiche, io non le ho capite. Dalla Maria De Filippi. Da amici, sa che fa? Arriva a Monaco, a Shanghai, questo programma, Amici di Maria De Filippi. Ma forse su Rai International, ma io non lo guardo in scuro. Vabbè, lo snob Forchielli fa figura, chi se ne frega della De Filippi. Ci sono le polemiche che va da Amici, no? Perché già subito in retroscena vuole il voto dei giovani, sta scaldando la campagna elettorale. È Renzi il futuro, Forchielli? Ma sì. cosa vuole. È difficile far peggio che Bersani, eh? Io non l'avevo mai sentito, ma sai, anche Bersani è un pezzo d'antiquariato, sì, è una roba da museo dell'archeologia politica, capito? Bisogna fargli subito una statua di cera. Addirittura subito così. Sì. Rottamato. No, il tentativo di non ha nessun appeal, neanche personale, carismatico, per arrivare a un punto fa 60 giri di parole, capito? No, sì, la comunicazione non è il suo forte, vabbè, si sa. No, sì, ho capito, la comunicazione non è il suo forte, cioè, cos'è il suo forte? No, non lo so. Siamo però qua al disastro, cioè ha fatto le liberalizzazioni. No, guarda. È una persona seria, su questo non c'è dubbio. È una persona preparata politicamente. Non avrà quel carisma quando parla, no, da statista, però. Non acchiappa voti, cosa ci posso fare io, capito? È come un calciatore che non fa gol, giocherà bene, ma se non fa gol, non fa gol. Ma è panchina, scusa. Infatti io l'ho messa così, è come, vi ricordate, gli appassionati di calcio, con Bersani che dice sono ancora in campo, è come se Napolitano avesse fatto come si faceva anni fa, non so se De Mazzoni segue il calcio, quando uno si azzoppava, dice vai là all'ala sinistra. Va. All'ala sinistra, esatto, sì. Gioca vicino alla bandierina, stai in campo ma mettiti là, che così non fai danni, che adesso ci pensiamo noi. No? E... anche questa cosa che è in campo è assurda, cioè, voglio dire. Tutto irrituale quello che sta succedendo. Tutto un po' fa ancora in campo Bersani? Perché Napolitano vuol vedere lui se queste consultazioni, nelle quali non so se chiamerà Forchielli, Boy Scout e l'ACI per concludere. Ho capito, ma dopo ridà l'incarico a Bersani e dice adesso ti ho risolto i problemi. Ma no, chiaro che no. Ci sono già i nomi che circolano, cancellieri. Cancellieri. Fuori da campo Bersani. Ma scusi, lì ha ragione Grillo. Non attenzione, Forchielli dice twittiamo subito, ha ragione Grillo. Perché è inutile di fare la routine con il giuramento, le robe, capito? E teniamo quel governo che c'è, gli mettiamo due o tre persone. Ma che quel governo che c'è? Ma se Monti ha detto non vediamo l'ora di andarcene. Ma lì così fanno a fare il poltronaio. Ma Forchielli. Ma è inutile provare un altro governo perché stiamo a perdere un sacco di tempo. I nomi che girano sono la cancelliera. Cos'è che facciamo? Cioè, come il Belgio, ragazzi. Come il Belgio. No, ma non ho capito però sta cosa di perché ha ragione Grillo. Attenzione, Forchielli dice sempre: cioè, i grillini attaccati ai maroni. La psoriasi. No, voglio dire il che si allarga. La psoriasi che ormai mi ha preso. Però voglio dire, il governo di per sé lo sappiamo tutti che durano 6 o 7 mesi. Ci stiamo ad accanire contro una roba. Questi prendono tempo, fanno il giuramento, devono prendere possesso delle pratiche. Ma devono fare la legge elettorale, poi almeno si ma va... Sì, ma lo fa il Parlamento la legge elettorale, non il governo, non ha bisogno che sia di iniziativa governativa. Quindi ha ragione Grillo. Iniziativa parlamentare, scusa. Ha ragione Grillo. Che bisogno c'è? Mica solo il governo fa le leggi, scusa. Propone le leggi, in teoria, il governo non le fa mai. In teoria dovrebbe essere il Parlamento a fare le leggi, in teoria. E allora, che cosa me ne faccio? Questi qui, ora che prendono possesso, due o tre pratiche sono già da andare via. Il governo ha la sua importanza. Cioè, ricordiamoci quello che ha combinato il governo che sta uscendo. Se ne ha fatte di tutti i colori, ci ha portato in depressione. Ma anche perché se c'è un vertice europeo, capito, chi ci va? Se c'è un vertice europeo, chi ci va a trattare con la Merkel? La Boldrini ci mandiamo a trattare con la Merkel? Grasso ci mandiamo? Ma sì, ma non riesce più a fare leggi dannose questo governo, capito? Deve fare l'esecutivo. Fammi parlare, Forchielli. Incominciamo con un po' d'ordine. Allora, un governo che deve passare dal Parlamento non è più in grado di fare danni, perché deve misurarsi con la maggioranza in Parlamento. Un nuovo governo che cerca di rendersi simpatico, invece è probabile che faccia un sacco di leggi, un sacco di provvedimenti dannosi, per cui il nuovo governo è meglio di qualsiasi governo. Insomma, Forchielli dice ha ragione Grillo su questo. 24 mattino. Ho un profondo pentimento. Ho dato il voto ad un gregge di pecore che non parla, non risponde, non si pronuncia, demandano tutto alla luce del pastore, Grillo. Una setta che bela è sotto costrizione. Oh, ma l'hai sentito Bersani? Ma perché quell'uomo lì non sa comunicare? Sembra sempre il maestrino di prima elementare in cattedra. Mi sembra di sentire il Prodi dei tempi d'oro. Che due maroni, va. Finché Bersani è affiancato da una Rosi Bindi e un leccapiedi come Enrico Letta, non va tanto lontano. Ehi Milan, ma secondo te i famosi pescatori, i poveri pescatori uccisi, eccetera, andavano a pescare sotto la petroliera e che pescavano? Un pesce diesel. È chiaro che erano pirati. E noi abbiamo mandato, da questi che adorano le vacche sacre, due poveri ragazzi che non potevano chiaramente spiegare a uno che sta adorando le vacche che quelli erano pirati. Stiamo parlando di persone che hanno sequestrato l'ambasciatore. Io vorrei solo sentire qualche parola di conforto per Bersani, che mi sembra una persona equilibrata, ma in Italia le persone per bene equilibrate non hanno successo. Sono un camionista, sto 12-14 ore su un camion, mi hanno allungato di 3 anni i tempi per andare in pensione. Vedo gli insegnanti che fanno 18 ore alla settimana e nei tempi liberi danno le lezioni a 50 euro a mio figlio per recuperare quello che potrebbero fare tranquillamente nel loro tempo libero. Però il Movimento 5 Stelle, perché cosa devo fare? È l'unica speranza, non c'è rimasto nient'altro. Spero che si torni a votare e il Movimento 5 Stelle prenda il 50% dei voti. Poi vedremo. Vabbè, voci della nostra segreteria telefonica. Un abbraccio a tutti i camionisti che spesso quando andiamo in macchina ci arrabbiamo con loro. Ah, ma è una categoria che ci segue tantissimo. Un abbraccio a tutti voi. Alla Massimo De Manzoni qui, forchielle così, esuberante, mica lo si contiene, mica lo si può trattenere, quando c'ha da dire dice: ah, zitti tutti, adesso parlo io, capito? E perché invece De Manzoni serve un esecutivo? È necessario? Perché abbiamo un sistema che è fatto così, cioè se si cambia sistema, per carità di Dio, si può anche metterci un tiranno, un re e dopo non c'è più bisogno di niente, oppure si può fare l'anarchia totale e vediamo come va a finire, ma col sistema che abbiamo serve per funzionare, serve un esecutivo. Serve per forza. Primo. Allora, secondo il teorema Forchielli si infrange su un Parlamento dove non c'è una maggioranza. Lui dice si va in Parlamento, la maggioranza decide, ma non c'è una maggioranza, quindi non si decide neanche in Parlamento. Nel momento in cui con un bicameralismo perfetto devi passare dal Senato, inchiodato lì. Sì, effettivamente, cioè, su quali provvedimenti si possono creare queste maggioranze variabili, si potrebbero creare, no? Sì, tanti. Su tanti, quali? Forchieri? Sì. Cioè su un provvedimento, su un provvedimento che ne so, il Movimento 5 Stelle dice sì e il PD sì e il PDL no, su un altro provvedimento la maggioranza che ne è PDL geometria PD. Variabile, geometria variabile. Geometria variabile, la maggioranza geometria. Allora, visto che è il Toto Nomi, visto che è il momento del Toto Nomi, io partiamo da una canzone perché io lo lancio. Il grillo disse un giorno alla formica. Io lo lancio da giorni, forse Forchielli questa se arriva delle sue parti, no? Taverti. No, dai, Forchielli non si può vivere solo in Cina, dai. No, Maurietta Berti è emiliana, no, non è romagnola. No. Ah, per carità. Attenzione, io propongo da giorni Fabrizio Barca. Finché la barca va, lasciala andare. Fabrizio Barca, il ministro della coesione territoriale, uno dei nomi che noi spingiamo. Barca, Barca, Barca. Forchielli, le piace Fabrizio Barca? Beh, è un bravissimo ragazzo, un bravissimo ragazzo, preparato. Potrebbe essere lui, è uno dei nomi, insieme al ministro dell'interno Cancellieri. Cosa? Per fare il governo? Eh sì, per fare il governo, per fare che cosa? Ma è sempre PD. Ma è sempre PD, ma ho capito, ma cioè, voglio dire, adesso non è che devono prendere, comunque, De Manzoni è un nome che potrebbe essere gradito a Berlusconi, o è troppo... Non penso proprio, è molto di sinistra, Si è candidato a fare il prossimo segretario del Partito Democratico, sarebbe un Bersani un po' più giovane. E ho capito. Che dobbiamo cercare qualcos'altro. Allora, Anna Maria Cancellieri può piacere a Berlusconi? Perché è un altro nome... Poi penso di sì. Ne è spuntato un altro, Franco Gallo, presidente emerito della Corte Costituzionale. Ma fra 90 anni? Non lo so, è così, l'ho letto, no, sui giornali. 104. 104 anni. Si incontra un Napolitano e Gallo, pensate un po' là. Allora facciamo Napolitano direttamente, è già lì, gli paghiamo, sì, è già lì, esatto. Ma guardate che giorni scorsi il giornale, credo, aveva lanciato questa idea che il Movimento 5 Stelle poteva dire mettiamo Napolitano. Beh dai, sarebbe proprio clamorosa, cioè Napolitano. Sì, però che si dimette. Come siamo messi sarebbe quasi divertente. Napolitano, ma. Vabbè, Forchielli, in Germania lì cosa dicono di Grillo, visto che l'altra volta ci ha detto devo prendere ancora possesso, fare due ricognizioni e poi vi so dire. Niente dicono di Grillo, che... No, beh sì, sono tutti molto solidali con la famosa battuta sui due clown, ossia, ecco. Sì. Non... Malissimo. Cosa dicono in Germania di noi? Ci vedono come i soliti terroni, no. È il mafiosi. Direi che è il periodo più basso dell'Italia dall'invasione dell'Etiopia. Questo. Parliamo da quando fumo cacciati dalla allora Manzoni, parli tu o parlo io? Allora, è il periodo più basso da quando fummo cacciati dalla Società delle Nazioni. De Manzoni dice parliamo degli italiani, di cosa dicono dei tedeschi, questi tutti con rigore si mettono lì e decidono. Va bene, basta che parliamo una alla volta, cazzo, se no qui non so fare sei mesi mattina. Questa maledetta mania italica che ti parla sopra le denti, non so. Ma qui perché stiamo te, Manzoni, perché stiamo chiudendo perché fammi parlare Manzoni, se no non mi contento, si caga addosso, dai parla. De Manzoni, guarda, tra 20 secondi devo chiudere il bar. Tu volevi dire? Parla! Basta, De Manzoni. Ora sto zitto, basta. De Manzoni. Non parlo con i coglioni, parlo con i miei. No, adesso, perché si è arrabbiato Forchielli. Voleva sapere, chissà cosa ne pensano gli italiani dei tedeschi. Tedeschi che stanno lì e dicono: Cipro affonda, la Slovenia chiudiamola. Rigore della Germania. Vabbè, ci dobbiamo fermare, grazie Alberto Forchielli, buon viaggio negli Stati Uniti, porterà un nuovo governo, e Massimo De Manzoni, vice direttore di Libero, è tempo del giornale radio. Volete dire la vostra? 02 4652 4492, chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492 e ricordate... Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Siamo di nuovo qui alle 7:20 minuti dopo il nostro parlamento chiuso dal nostro Forchielli. Nella sua maniera brusca, cos'è che ha detto? Se devo parlare con due coglioni, parlo con i miei. E ha salutato così. Va bene, ci siamo, cari ascoltatori. Siamo pronti ovviamente per parlare anche della situazione politica dopo che ieri Bersani è andato a riferire a Napolitano sulle consultazioni che non sono state risolutive. Dunque Napolitano ha preso il pallino in mano. Sarà lui ora a gestire in un giro di consultazioni rapidissimo che si svolgerà tutto nella giornata di oggi e forse già in serata o magari domattina, proporrà il famoso piano B, una soluzione nuova. Comunque ne parliamo con ospiti alle 8:15, avremo con noi per il Partito Democratico l'onorevole Orfini, ci sarà con noi anche l'onorevole Verro per il Popolo della Libertà. Ovviamente anche le telefonate degli ascoltatori oggi preziose per capire cosa ne pensate di questo impasse, di questo stallo davvero della politica. Andiamo a leggerlo intanto come lo dipingono i giornali in edicola. Questo venerdì 29 marzo i titoli sono quasi tutti declinati proprio sulla situazione politica. Inizio dal Sole 24 Ore come di consueto, oggi... A maggior ragione c'è un titolo che troverete a caratteri cubitali, scritto due parole in colore rosso e nero: basta giochi.

tot ore di lavoro in base ai prodotti e quindi ai punti che ha acquisito lavorando nella struttura dove ha preso questi prodotti. Beh, davvero, 4 kg di pasta, un punto, un litro d'olio, due punti. Benvenuti a Portobello, il supermercato dove gli acquisti non si pagano, non si pagano almeno in soldi, ma con una tessera scalare, ricaricabile con lavoro volontario, pure lui non pagato, e almeno una volta alla settimana. È il supermercato per disoccupati e famiglie che verrà inaugurato a maggio a Modena dal centro servizi per il volontariato. Stanno lavorando tra l'altro a questa struttura da 500 metri quadri artigiani, installatori, e lavorano tutti tra virgolette gratuitamente o con fortissimi sconti, per una struttura che può contare sull'aiuto di 20 associazioni e 70 volontari. Che cos'è? Baratto? È un'iniziativa che mi fa meditare, mi fa pensare, insomma, che la situazione sia davvero difficile e si voglia anche risolverla così. "24 mattino, la politica nel tunnel." Eccoci qua, ben ritrovati da Alessandro Milan, alle 8:17. Allora, cari italiani, avete capito che cosa sta succedendo per quel che riguarda la politica? I giornali oggi usano tutti praticamente la metafora calcistica. Dopo 4 giorni di consultazioni, Bersani è andata al Quirinale, ha detto non sono state risolutive, quindi va in panchina, e ora ci pensa Giorgio Napolitano. Perché? Perché Bersani, dopo aver incontrato più o meno tutti questi 4 giorni, non ha portato numeri certi, quelli che chiedeva Napolitano. E allora il capo dello Stato ha preso la palla al balzo, ha preso in mano il controllo della situazione. In un giro rapido di consultazioni che si svolgeranno tutte oggi, vorrà capire se davvero questi ostacoli, queste preclusioni di cui parlava ieri Bersani ci sono oppure no. Sentiamo Bersani ieri. Ho descritto anche difficoltà derivate da delle preclusioni o da delle condizioni che io non ho ritenuto accettabili. A questo punto semplicemente il Presidente ha ritenuto di condurre immediatamente e direttamente dei suoi accertamenti. Ecco qui, gli accertamenti. Cosa vuol dire questo in concreto? Ne parliamo con l'onorevole Matteo Orfini del Partito Democratico. Buongiorno e benvenuto, Orfini. Buongiorno a voi. Responsabile di cultura e informazione, tra l'altro, del partito. Saluto il senatore del Popolo della Libertà, Antonio Verro. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti voi. Allora, intanto, onorevole Orfini, la domanda gliela faccio diretta. Bersani è fuori dai giochi a questo punto, secondo lei? Ma direi di no. Bersani non ha rinunciato all'incarico, né Napolitano lo ha revocato, ha preso una giornata in più per fare personalmente le consultazioni e capire se si riesce a sbloccare la situazione. Ovviamente quindi Bersani è ancora in campo, questo non significa che sarà facile ottenere un incarico pieno, però insomma abbiamo un'altra giornata per lavorarci. Un'altra giornata. La questione è però perché gli italiani si chiedono perché se dopo 4 giorni, dopo aver incontrato tutti, e le avrà viste anche le ironie quando si dice tutti, vuol dire proprio tutti, no? E con queste consultazioni allargate anche magari istituzioni che non sembrano strettamente politiche, perché questo giorno supplementare di Napolitano? Cioè, cosa potrebbe scoprire il Presidente della Repubblica che Bersani non ha già accertato in 4 giorni? Beh, l'autorevolezza del Presidente della Repubblica è tale che non potrebbe convincere tutti a prendersi le loro responsabilità. Noi abbiamo fatto una proposta chiara, abbiamo chiesto almeno di consentire la nascita del governo per mettere in campo quegli 8 punti di cambiamento che abbiamo presentato al Paese e che vorremmo presentare al Parlamento. Abbiamo avuto, come evidente, delle difficoltà, nel senso che le altre forze politiche non si sono rese disponibili per ragioni differenti l'una dall'altra. Vediamo se Napolitano riesce a in qualche modo a far fare un passo avanti al Paese. Quando parla di preclusioni si riferisce al Movimento 5 Stelle? Secondo lei abbastanza... Ma Movimento 5 Stelle e PDL, il Movimento 5 Stelle si è dichiarato indisponibile a votare la fiducia a qualunque governo, poi hanno dichiarato cose differenti, ma nelle consultazioni ha sempre esplicitato la posizione diciamo quasi aventiniana rispetto al voto di fiducia a qualunque ipotesi di governo. E il PDL ha cercato di inserire nella discussione elementi impropri come la trattativa sul Quirinale, che non può essere legata alla formazione di un governo. Credo che Bersani si riferisse a queste due cose. Infatti io l'ho letta così: preclusioni più sul Movimento 5 Stelle, quel no assoluto, e le condizioni che non ho ritenuto accettabili, qui vorrei andare dal senatore Verro, l'ho letta un po' così, cioè l'idea che il Popolo della Libertà abbia messo sul piatto della bilancia appunto la partita del Quirinale. A questo proposito, senatore Verro, tutti i giornali raccontano che Napolitano vorrebbe proprio capire da Berlusconi in persona, come primo punto, questo. È dirimente la questione del Quirinale per voi? Cioè siamo disposti anche a votare nel caso un governo monocolore del PD anche con Bersani, basta che ci date il Quirinale? Che cos'è, il mercato delle poltrone? Non si tratta di mercato delle poltrone. Certo è che nella complessa trattativa della formazione del governo, degli assetti istituzionali del paese, il Quirinale è una casella importante. E francamente dal nostro punto di vista è inconcepibile che un partito che ha preso il 30% dei voti, esattamente quanto il PDL, abbia contemporaneamente le principali quattro cariche del paese. Qui si tratta non di, come dire, occupazione di potere, ma di rappresentare quel 30% di elettori che ha votato PDL. Istituzionalmente, le chiedo scusa, è possibile che Berlusconi dica sì, però noi vogliamo il Quirinale? Cioè, tra l'altro parlando direttamente con colui che al Quirinale siede, cioè effettivamente è una cosa un po', vuol dire, magari queste cose sono trattative politiche che non è che possono essere esplicitate così. Cioè, cosa c'entra con la formazione del governo il successore di Napolitano? Ma sulla formazione del governo, cioè, qui stiamo, secondo me, ribaltando un po' la situazione. Cioè, dall'indomani della chiusura delle urne era evidente a tutti, tranne a Bersani, che il governo o si faceva che Bersani, che ovviamente doveva avere l'incarico per la formazione del governo, essendo il partito che di pochissimo, la coalizione che di pochissimo ha vinto le elezioni, o Bersani si alleava con 5 Stelle o si alleava col PDL. Cioè, non c'erano terze soluzioni per poter governare questo paese, tra l'altro in un momento di difficoltà che tutti conosciamo. Il Movimento 5 Stelle ha sempre sdegnosamente rifiutato le avance cioè non c'era altra alternativa che fare un governo tra PDL e PD. Tra PD e PDL. Noi ci siamo dichiarati disponibili, superando anche noi tutta una serie di riserve culturali, ideologiche, storiche, eccetera. Ho capito, però lei dice le riserve, però voi avete preso seppure per poco meno voti. Cioè più esatto, abbiamo detto siamo disponibili a sederci attorno a un tavolo e stilare un programma condiviso, eccetera, per cercare di anteporre nei fatti e non nelle parole gli interessi del paese. E Bersani ha ritenuto legittimamente di non accogliere la nostra disponibilità. E quindi non credo, onestamente, la faccio anche lei la domanda. La metafora calcistica, credo che la panchina di Bersani adesso sia l'anticamera della tribuna. Bersani cambia opinione in queste 24 ore, ma francamente non vedo spiragli, o altrimenti non vedo altra soluzione. Dico, non voglio anticipare quello che andrà a fare Napolitano, però il Presidente della Repubblica credo che darà l'incarico a un'altra personalità che probabilmente riuscirà a mettere d'accordo anche il PD, perché io le dico francamente che parlando nei corridoi di Montecitorio del Senato con colleghi del PD, e francamente anche loro sono molto critici nei confronti di questa ostinazione e di questa chiusura Vediamo, questo cercheremo di capire anche i nomi che sono, i giornali oggi li esplicitano, si parla sempre o Giuliano Amato, Anna Maria Cancellieri, se viene fuori anche il nome di Franco Gallo, presidente della Corte Costituzionale, come nuova possibilità, ma insomma adesso magari ne parleremo più avanti. Prima però vorrei capire Matteo Orfini, la questione è sempre questa, cioè il rilancio del governismo. Voi avete precluso in maniera sempre netta e chiara al governissimo, che numericamente era una possibilità concreta sul tavolo. Perché questa ostinazione, chiede il senatore Verro? Ma non è un'ostinazione. opinione, una posizione politica, cioè a cosa servirebbe il governissimo, per fare cosa? Noi e il PDL abbiamo idee diversissime su cosa serve al paese per uscire dalla crisi, l'idea che mettendo insieme cose diversissime, anzi alternative, si trovi un punto di mediazione utile al paese è un'idea un po' strampalata, tra l'altro ne abbiamo avuto la dimostrazione nell'anno passato in cui abbiamo tenuto insieme cose che fanno fatica a stare insieme a sostegno del governo Monti e i risultati non sono stati secondo gli elettori così straordinari, insomma, quindi mi sembra che perseverare sarebbe un errore piuttosto grave, insomma, non si... Ma c'è una acqua e olio non stanno insieme. Acqua e olio, ma è una preclusione politica, una preclusione anche sul nome proprio di Silvio Berlusconi, sulla sua storia? No, è politica, ma figuriamoci, Berlusconi ci mette del suo, non c'è ombra di dubbio, ma insomma a prescindere da Berlusconi è col PDL il problema, cioè noi abbiamo su tutto, dall'economia, dal mercato del lavoro, dall'idea della legalità, dalla giustizia, su tutte le cose urgenti da fare per il paese, idee opposte, come facciamo a metterle insieme? Sarebbe incomprensibile e soprattutto sarebbe inutile perché, come dire, finiremmo in una trattativa estenuante su ogni singolo aspetto che impedirebbe al governo di fare il proprio dovere. Mm. Senta, ma nel Partito Democratico effettivamente tutti i giornali raccontano che c'è questa, no, di sfida. Adesso non è che voglio subito metterla, anche se poi la metteremo tra renziani, bersaniani, però insomma pensare che il partito sia compatto su questa linea di Bersani mi sembra un po' una versione troppo ottimistica. Fino ad oggi il partito è stato compatto, abbiamo, come dire, il mandato a Bersani lo abbiamo dato all'unanimità e c'erano i renziani, i bersaniani, i veltroniani, c'erano tutti. Quindi insomma mi sembra che siamo divisi nei retroscena, uniti nelle riunioni, ora siccome le decisioni si assumono nelle riunioni e non nei retroscena dei giornali, direi che ad oggi l'unità del partito è dimostrata. C'è l'unità del partito. Facciamo così, ci fermiamo 4 minuti per la pubblicità e poi entriamo anche con gli ascoltatori. 800 24 00 24, cari ascoltatori, cosa ne pensate? Come si uscirà da questa situazione? Napolitano troverà il modo per capire quali sono le preclusioni che ha riscontrato Bersani, le condizioni che non ho ritenuto accettabili, quindi punterà ancora su Bersani oppure sceglierà un nuovo nome? Ha preso proprio la palla in mano l'esperienza bersaniana è finita secondo voi? Ne parliamo tra poco. Con noi ci sono il senatore Antonio Verro del Popolo della Libertà e l'onorevole Matteo Orfini del Partito Democratico. A marzo, nuovo Citroen C3 Picasso 1400 VT Seduction al prezzo di... Massimo, soffri di disturbi della personalità. Qui c'è scritto... Ma no, non c'è bisogno, Citroen è già uno spettacolo, senti qua. A marzo, nuova Citroën C3 Picasso al prezzo di Citroën C3 1200 a 10.650 euro e sul resto della gamma continua lo sconto dipendenti. Info su citroen.it. Tu sai come farti sentire. Effettivamente. Siamo stati alluvionati. L'azienda era compromessa. Fiume di fango, detriti. Altezza un metro. 150 motori distrutti. L'assicuratore mi dice chiama la Belfor. Grazie anche a loro. Non c'è più traccia di quello che è successo. Belfor è leader nel recupero dopo alluvioni, incendi e inquinamento. Ha creato PIA, pronto intervento azienda. Priorità di intervento in 24 ore e formazione del tuo personale. Per informazioni pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro? Scegli Belfor. Guantagli Agenti. Agenti.it. Azienda Guantagli Agenti. Agenti.it. Cerchiato. Guantagli Agenti. Agenti.it. Trovato. Azienda Guantagli Agenti. Agenti.it. www.agenti.it. Tempo in diretta. Previsioni a cura del Centro Epson Meteo. Una buona giornata agli ascoltatori di Radio 24. Oggi giornata di tregua nel maltempo sull'Italia, con gli ultimi effetti al sud questa mattina di una perturbazione che si allontana, mentre un'altra arriverà domani portando piogge in gran parte d'Italia. Poi a Pasqua e Pasquetta avremo alternanza di nubi e qualche pioggia, ma anche di schiarite un po' in tutto il paese, con a Pasqua una giornata ventosa, ma più mite al nord. Già oggi le temperature al nord sono in rialzo di diversi gradi. Per quanto riguarda la giornata odierna, vi segnalo ancora qualche pioggia all'estremo nord-est, tra Levante Ligure e Alta Toscana, e questa mattina appunto al sud. Per il resto schiarite ampie al sud e nelle isole, maggiore nuvolosità altrove. I venti sono per lo più deboli. Per altri dettagli meteo.it. Con questo è tutto. Credito in primo piano. Risponde Assicom. Un saluto. Ecco cosa ci chiede con una mail un ascoltatore. Se un'azienda all'estero non mi paga una fornitura, com'è meglio procedere? Risponde Paolo Bravin, direttore generale Assicom. L'export rappresenta oggi per molte aziende l'ancora di salvezza. Tuttavia il contesto di crisi rende i mercati sempre più difficili ed obbliga gli imprenditori ad essere più accorti ed organizzati, in particolare nella gestione dei crediti. Serve quindi attenta prevenzione e, in caso di mancato pagamento, un intervento tempestivo. La scelta migliore è agire direttamente nel paese del debitore per trasmettere un forte messaggio di attenzione al credito e aumentare le possibilità di incasso. In questi casi è fondamentale avvalersi dell'assistenza di una struttura specializzata ed esperta. Vai su radio24.it nella sezione Credito in primo piano e fai la tua domanda. Ti risponde Assicom, specialista nella gestione dei crediti in Italia e all'estero. Gestire correttamente le informazioni aziendali è il nodo cruciale delle piccole e medie imprese. Team System studia da oltre 30 anni le soluzioni migliori alle problematiche di gestione aziendale. L'ERP Gamma Enterprise è il software ideale per tutte le aziende italiane che vogliono controllare, gestire e analizzare tempestivamente i dati aziendali, fornendo risposte adeguate ed immediate al mercato. Vuoi essere avvisato dal tuo gestionale quando qualcosa non va nel verso giusto? Scopri Gamma Enterprise di Team System, la migliore soluzione per vedere prima ed agire subito. Team System, vicina da sempre alle piccole e medie imprese. 24 mattino. Eccoci qua alle 8:32 minuti. Allora siamo con Matteo Orfini e Antonio Verro per Partito Democratico e Popolo della Libertà. La mia sensazione, vorrei ripartire dal senatore Verro, la mia sensazione è che così, in maniera bipartisan, ve lo dico, non si capisca bene la situazione. Non so se avete già visto il titolo del Sole 24 Ore oggi, quel basta giochi che ha caratteri cubitali, ricorda un po' quel fate presto di mesi fa. Cioè la situazione di un paese reale che si sta per sfaldare dal punto di vista dell'economia, del lavoro, dei giovani che non trovano lavoro. Senatore Verro, la sensazione è che i cittadini guardino la politica fare i soliti giochi a rimpiattino, chiacchiere. Io sono d'accordo, però la politica in questo momento, io sono sempre stato molto critico nei confronti della politica perché secondo me non deve inseguire demagogie e facili populismi. Però oggettivamente in questo momento, se posso dire una cosa impopolare, quello che sta succedendo è figlio di quello che ha voluto il popolo sovrano, perché se ci sono tre blocchi contrapposti di circa il 30% è perché gli elettori hanno così votato. Ma o forse perché c'è una legge elettorale che è una schifezza e l'abbiamo tutti e non lo avete cambiata. È così, cioè se c'è una legge elettorale che prevede due sistemi diversi per eleggere la Camera e il Senato, era un anno e mezzo che Napolitano diceva cambiatela. La legge elettorale non fu fatta così da noi, ma fummo costretti a farla perché allora il Colle impose questo tipo di... Sì, però al di là delle colpe, per un anno e mezzo Napolitano ha detto: caro Parlamento, col governo Monti, cambiate la legge elettorale perché è un disastro. Dire, dal punto di vista della rappresentanza, è vero quello che lei dice, quindi se si fosse cambiata la legge elettorale, questa situazione di governabilità al Senato e alla Camera e ingovernabilità al Senato non ci sarebbe stata. E però nulla cambiava rispetto al fatto che l'Italia oggi è divisa in tre blocchi del 30%, quindi secondo me è questo il dato di fondo sul quale bisogna costruire e partire tutto il ragionamento che prima facevo nei confronti della governabilità del paese, perché prima Orfini giustamente diceva che su mille cose ci sono tantissimi anni luce di distanza rispetto tra le posizioni nostre e le posizioni loro, sì. Però il senso di responsabilità io credo imporrebbe, superando tutti i pregiudizi e tutte le riserve che reciprocamente ciascuno di noi ha, di stilare una lista della spesa, di stilare delle priorità che sono appunto quello che diceva lei e ci ricordava il Sole 24 Ore, quindi l'economia, la legge elettorale, i costi della politica, ma senza inseguire anche qui le demagogie e le follie che ci vengono imposte dal Movimento 5 Stelle e quindi cercare di fare delle cose di buon senso, perché sono convinto che su questi temi concreti e specifici della gente, che se ci chiudiamo in una stanza, io adesso non conosco Orfini, ma se ci chiudiamo in una stanza io, Orfini, oppure i responsabili dei nostri partiti dal punto di vista economico, eccetera, io sono convinto che una mediazione che sia il bene del paese si trova. Ma se dice Orfini che siete acqua e olio, Orfini, com'è l'espressione? Acqua e olio non vanno d'accordo? Sì, acqua e olio. Bergoglio, ecco. Anche perché in una stanza ci siamo chiusi insieme per un anno e non un è un governo tecnico, però scusami Orfini, con un governo tecnico, effettivamente Verro, cioè, voglio dire, c'era Napolitano che io ho fatto il countdown tutte le settimane sul mio profilo Twitter, dicevo ironicamente è la 90esima settimana decisiva della riforma elettorale, è la 91esima settimana, adesso poi dite che la riforma elettorale non piangiamo sul lato versato, perché c'è già abbastanza, per carità, ho capito, sì. la legge elettorale andava rifatta, ma scusi, legga il Sole 24 Ore, oggi l'emergenza è la legge elettorale, oggi l'emergenza è dare il futuro a mio figlio, questo oggi certamente. L'emergenza è fare mangiare la gente, questo certamente, però voi avete introdotto anche il Movimento 5 Stelle, allora Orfini, le chiedo questo, noi tra l'altro abbiamo invitato anche avere un ospite del Movimento 5 Stelle, è sempre un po' complicato, avevamo anche invitato un onorevole, ma ieri poi alle 11 ci ha detto che non è arrivata l'autorizzazione a intervenire. Onorevole Orfini, Grillo dice, ma facciamo senza governo, o meglio un governo c'è, facciamo questo termine, la prorogatio, insomma teniamo Monti, il Parlamento è insediato, il Parlamento legifera e andiamo avanti così, che problema c'è? Non è una situazione in cui non c'è un esecutivo, è una possibilità? Cretinata, direi, nel senso che oltre a essere costituzionalmente dubbia come pratica, a meno che non ci sia un nuovo voto di fiducia al governo, cosa che mi pare sia esclusa da Grillo, è piuttosto curiosa come posizione, soprattutto se portata da chi ha sostenuto in campagna elettorale che il governo Monti è stato il principale responsabile di tutti i mali del paese, come ha fatto Grillo, e adesso ci chiede di continuare in eterno finché si può col governo Monti. Pensando peraltro che appunto l'attività parlamentare possa avviarsi senza un governo, o comunque con un governo in carica solo per lo svolgimento degli affari correnti, insomma è una posizione drammaticata istituzionalmente e sbagliata politicamente. L'ha detta, ma su questo credo che anche Verro sia d'accordo. Sono d'accordissimo con Orfini. Vedete che l'acqua e olio cominciano un po', almeno piccola convergenza. Ha detto questo, Grillo non va inseguito sulle sue provocazioni, perché Grillo usa proprio una tattica leninista scientifica. Grillo va combattuto sul piano delle risposte ai bisogni della gente. È una posizione politica buona. Cos'è la tecnica leninista? Quale sarebbe? Che Grillo pretende dagli altri l'apertura che lui non ha e non dà. Va avanti con slogan e provocazioni pretende dagli altri l'apertura. Nella stanza degli altri, e invece le sue decisioni appunto sono leniniste. Allora, il parlamentare ha bisogno dell'autorizzazione per venire a questa trasmissione. È la loro linea. Noi ne abbiamo ospitati alcuni del Movimento 5 Stelle, alcuni sono un po' più aperti, alcuni no, c'è un senatore. Io non ho avuto nessuna autorizzazione, c'è un senatore del Movimento 5 Stelle che per essere andato da Barbara D'Urso 2 giorni fa, quasi certamente raccontano oggi proprio i giornali, verrà espulso e cacciato. In ogni caso sentiamo 800 24 00 24, Francesco dalla provincia di Teramo ci chiama, buongiorno Francesco. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Dica. Io volevo chiedere ai suoi ospiti maggiormente, ma loro dicono che si differenziano come linea politica, ma penso che il popolo invece abbia dei problemi comuni. Cioè, non mi sembra che loro ragionino in questi termini. Si differenziano da chi? Da cosa? Non capisco molto bene. Loro si richiamano a... Niente, abbiamo perso la linea telefonica. Vabbè, lo recuperiamo magari. Orfini, a questo punto c'è la domanda su Matteo Renzi. Tanto lei lo sa che prima o poi la domanda su Matteo Renzi capita, no? Ci tocca a noi. No, è una domanda in realtà non peregrina, perché allora intanto non ho capito le polemiche sul fatto che Matteo Renzi vada da Maria De Filippi ad Amici, perché oggi sui giornali è terrabanco in questo paese bizzarro anche per una settimana questa questione. Dove starebbe la polemica? Che vada Mediaset, che va a una TV di Berlusconi? Non lo so, io ieri ho anche fatto un tweet dicendo che io la prima serie di Amici l'ho vista tutta, quindi vedrà anche questa. Matteo Orfini guarda Amici Maria De Filippi. No, la prima serie, ho detto, credo che siamo alla non so che numero, però insomma non ci trovo nulla di male. No, perché ci sono le polemiche sul fatto, cioè cosa fa secondo lei? Va a iniziare la campagna elettorale iniziando dai giovani? Ma no, ma credo che un dirigente del PD come Matteo Renzi, se ha l'occasione di andare in una trasmissione come questa e rivolgersi a un pubblico diverso da quello che abitualmente guarda i talk show politici e le trasmissioni più di approfondimento, fa bene ad andarci. Poi certo dipende da cosa dice, ma insomma spero dica cose di buon senso. Vabbè, questo lei, siccome spesso vi siete anche scontrati, ma è vero, siccome lei fa parte di questi giovani turchi, anche se dovete cambiare il nome perché... No, ma noi non ci chiamiamo, cioè ci hanno chiamato così, sì, noi siamo ostili a questo nome perché ricorda una pagina tragica della storia. Del genocidio degli armeni. Siamo vittime di un'etichetta. Però insomma no, siete diciamo bersaniani e con Matteo Renzi spesso vi siete scontrati. Però davvero l'idea di una possibile convergenza anche generazionale del nuovo Partito Democratico sul nome di Matteo Renzi, lei la esclude per magari non adesso ma tra sei mesi, tra un anno? Ma no, ma queste sono appunto le cose che spuntano in retroscena ogni tanto, ma insomma non hanno grande fondamento, nel senso che noi con Matteo Renzi abbiamo condiviso una battaglia fatta da sponde diverse per il rinnovamento, l'abbiamo fatta anche in queste settimane sulle presidenze di Camera e Senato, insomma, e da quel punto di vista ovviamente abbiamo visioni simili, cioè crediamo serva più rinnovamento, dopodiché sulle ricette politiche per il Paese abbiamo avuto idee molto diverse ed è la ragione per cui ci siamo scontrati alle primarie, abbiamo ogni tanto anche battibeccato. Ma l'idea che spunti Renzi come ipotesi addirittura adesso è un'idea peregrina, è un'idea folle? Ma adesso in che per far cosa, come premier incaricato? Certo. Sì, penso sia un'idea folle, non credo, ma nel senso che penso non la prenda in considerazione Renzi, non la prenda in considerazione Napolitano, non mi sembra una cosa, diciamo, nell'agenda dell'oggi. E allora magari tra poco vedremo qualche nome. Laura da Firenze, buongiorno Laura. Buongiorno. Dica. Sì, volevo, visto che l'onorevole del PDL ha detto che la colpa è degli italiani che non hanno saputo votare, volevo chiedergli se invece non era la colpa dei soliti dei politici che hanno presentato le solite persone che non sono decisamente credibili agli occhi degli italiani, visto che in 20 anni ci hanno portato a questo punto. Quindi forse dovrebbe andare a dirlo in mezzo a una piazza questa affermazione e sentire qual è la reazione. Senatore Vero, stia con noi Laura, che il senatore Vero le risponde. Non capisco questa reazione piccata, è chiaro che le colpe sono di tutti, ognuno si assume la sua. Insomma Laura dice, ma come adesso i politici che per 20 anni hanno mandato allo sfascio questo paese si ripropongono, ci vengono a dire che la colpa è del paese diviso in tre? Ho detto la colpa, ho detto la colpa nel senso che ognuno si deve assumere le sue responsabilità. Cioè, io sono convinto che, e questo l'ho detto in campagna elettorale più di una volta, dobbiamo uscire dalla logica della rappresentatività che ha sempre caratterizzato le elezioni e dobbiamo passare alla logica della governabilità. Sì. E quando si va a votare, io voglio votare per un partito che mi garantisce governabilità. Da qui la mia campagna elettorale è tutta fondata sul voto utile. Cioè, nel senso che dicevo, i partiti più grandi, piaccia o non piaccia, sono... Grillo a parte, che è stata un po' una sorpresa. PD e PD. Da tutti. PD e PD. Va bene, insomma, il voto utile. Però la questione, Laura è soddisfatta, non so. Il punto è che purtroppo loro rappresentano il paese perché noi siamo così. Però le leggi le fanno loro, l'ingovernabilità l'hanno dettata loro con le loro leggi. E comunque forse presentare delle persone nuove e credibili, forse tirarsi dietro tutti, compreso Bersani, non ce l'è per tutti, forse sarebbe stata una cosa... Insomma, lei dice gli italiani in realtà hanno punito. Il ricambio generazionale di per sé sia garanzia di governabilità e sia... Non è questo. No, ma io però se seguo... Mi chiedo, sono una garanzia? Non lo sono, non mi sembra. No, però io, senatore Verro, seguo un po' la linea di Laura, che guardi, noi raccogliamo tanti umori delle persone. La linea di Laura è la linea della gente che non è tanto il voler cambiare via tutti, che ne so, i sessantenni e dentro i trentenni. Questa sarebbe un'operazione troppo brutale e senza senso. Però l'idea di, insomma, vedere sempre le stesse persone che hanno a volte causato anche questa situazione, che si ripropongono al paese. Questo magari io credo che tranne i grandi leader, Bersani, Berlusconi, Veltroni, eccetera, che D'Alema. Sì. Che voglio dire, che si è fatto da parte. Alcuni non sono stati candidati, però sono sempre una presenza, secondo me, giustamente significativa nei singoli partiti. Un po' di ricambio c'è stato. Ma credo che cambiamenti ce ne siano stati. stati anche nel PDL e nel PD. Fatemi sentire, ma certo, fatemi sentire Franco da Bari, poi andiamo al traffico. Franco da Bari, buongiorno. Franco, buongiorno a voi. Io volevo solo capire una sola cosa. Bersani ha fatto per 4 giorni tutto quello che poteva fare, poi non capisco come mai ha anche invitato le parti sociali, la Confindustria, ciò che con la politica non c'entrano niente. Beh, insomma, però adesso... il problema è uno. Sa... Cioè, ma scusi, a livello. Ma no, ma a livello. Ma la politica e l'economia sono intrecciate, lei non si accorge di quello che sta succedendo in Italia. Comunque, dica Franco. A questo punto ha visto che no, il governo non lo poteva fare, noi doveva solo andare ieri, come ha fatto, dal Presidente della Repubblica e dire: io il governo non lo posso fare, a questo punto io mi dimetto e metto la mano, la palla al Presidente della Repubblica. È solo questo, perché lui ci tiene ancora dentro? Ma perché probabilmente lui pensa, Bersani, magari lo chiederemo tra un attimo dopo il traffico, Orfini, pensava di avere ancora i numeri per far partire, far accendere quella macchina col voto di fiducia, no? Però è interessante perché siccome si è profilato questa idea di un confronto scontro ieri tra Bersani e Napolitano, proprio su questo ripartiremo da qui, da Matteo Orfini, tra un attimo dopo il traffico. Eccoci, l'ultima parte di 24 Mattino, ma poi anche Simone Spezia a 9 in punto tornerà e continuerà su questo filone, d'altronde il giorno è decisivo. Matteo Orfini, l'ascoltatore da Bari, ha fatto un'analisi normale a dire: ma scusate, ma Bersani perché? Cioè, cosa si aspetta ancora? Cioè, in cosa spera? Perché ieri non ha detto: guardi, Presidente, effettivamente i numeri non ci sono e quindi basta, cioè, mi metto da parte. Cioè, confida ancora in che cosa? Ma intanto andare avanti non è stata una decisione solo di Bersani, è una decisione condivisa da Bersani e dal Presidente della Repubblica, che evidentemente hanno valutato che si possono cercare ancora i margini per una convergenza, per un accordo, per uno sblocco della situazione. Il Presidente della Repubblica si fa carico in prima persona di verificare, perché evidentemente l'esito dei colloqui che ha avuto Bersani è tale da far sperare che si possano riaprire degli spiragli. Certo, è molto difficile. Ma quali spiragli? Lei ci può far capire che tipo di spiragli? Cioè, la questione è, come dicono i giornali, caro Berlusconi, è vero che se noi ti diamo il Quirinale, adesso la metto così brutalmente, se ti diamo il Quirinale tu sei disposto ad appoggiare il governo del PD? No, questo è stato escluso, nel senso che fa parte di quelle richieste che sono state respinte, come ieri ha detto Bersani, perché irricevibili, perché non si possono, non perché uno voglia prendersi il Quirinale, come dice Berlusconi, che non ha senso, ma semplicemente perché la discussione sul Quirinale deve essere slegata da quella sulla maggioranza di governo, per ragioni del tutto evidenti a chiunque abbia un minimo di contezza delle cose istituzionali. Semplicemente per verificare, questo giorno in più serve per verificare se la proposta che ha fatto il Partito Democratico, che non cambia, anche perché non può cambiare, nel senso che Bersani ha avuto un mandato dalla direzione del partito su quella posizione, può avere aperture. Però cos'è un 8 punti per il cambiamento e la convenzione per le riforme. Io continuo a capire cos'è un commissariamento, cioè veramente quale? Nel senso, quello di Napolitano su Bersani, cioè non riesco veramente a capire, ma sarò ottuso, il perché, se non c'è arrivato Bersani ci debba arrivare con quali strumenti di persuasione diversi da Napolitano. È un leader politico, candidato premier a queste elezioni, che rappresenta una parte, Napolitano rappresenta tutti quanti, quindi può anche essere quel garante che viene richiesto per una prospettiva del genere, cioè, naturalmente da garanzie di terzietà. Sì, certo. Senatore Verro, l'idea è questa, che le proposte sono più o meno le stesse, ma approfondite da una persona che ha una terzietà, e quindi... Giorgio Napolitano. Io credo che Bersani in questa sua decisione sia stato molto condizionato un po' dalle pressioni di Sella, che ovviamente vede di buon occhio solo la linea dell'alleanza con impraticabile, peraltro l'alleanza con 5 Stelle. E un po' credo che Bersani in questo voglia strizzare l'occhio al blocco sociale che fa riferimento agli elettori di Grillo, e quindi vuole uscire di scena con il massimo del passo felpato, per dire domani a tutti in una campagna elettorale che ormai è inevitabile, io ho fatto l'impossibile e quindi... Ah, dice che si torna a votare, lei dice. Comunque, insomma, tra sei mesi io penso, io penso che comunque vada a finire la partita del Quirinale. Mm. Io immagino che la soluzione sia quella che tutti i giornali oggi... Ecco, oggi, a proposito, i nomi, Fabrizio Saccomanni le andrebbe bene? Ma guardi, io da questo punto di vista mi fido ciecamente di quello che decide Napolitano. Secondo me qualunque nome, super partes, che Napolitano tiri fuori dal suo cappello, a me personalmente va bene, no? Quindi però deve essere super partes, perché tra i nomi c'è anche, non so, il ministro Barca, oppure Graziano Del Rio, adesso è stato oggi sulla stampa il presidente dell'ANCI, che è del Partito Democratico, però è un renziano. Io adesso, ripeto, Napolitano sa certamente quello che deve fare. Il Presidente della Repubblica ha dato prova fino adesso di gestire tutte le situazioni spinose con massimo di equilibrio. Confido nella scelta, non voglio avventurarmi in nomi perché confido pienamente nella scelta del Presidente della Repubblica. Sentiamo... Però voglio dire, è inevitabile che chiunque sia è un governo che ha un orizzonte limitato. Sì, deve fare quelle cose, quelle cose, ripeto, che quelle cose che non avete fatto voi, vero? Me lo faccia ridire per l'ennesima volta, la legge elettorale, sbloccare i crediti per le imprese, e poi si va a rivotare. Luciano da Brescia, buongiorno. Buongiorno, mi sente? Benissimo. Buongiorno, sono Luciano da Brescia, un esulato. Mi rivolgo a voi politici di lungo corso. Vorrei sapere come vi sentite moralmente dopo tanti anni che avete fallito su tutto quello che avete fatto. Ci avete portato la disperazione. Avete tutti i privilegi che si possono considerare in Europa. I più pagati, quelli che lavorano bene, quelli che fanno un cazzo da mattina a sera. Avete massacrato tutta l'Italia. Come vi sentite? Ma voi aspettate che noi andiamo in piazza non più con le bandiere, con i forconi? Eppure farete qualcosa. Non avete capito che ci avete stufato? Andatevene, avete fallito in un'azienda privata, gente come voi sarebbe stata cacciata via. Lei Luciano, però anche l'indennizzo per ciò che avete fatto di male. Luciano, lei cosa ne fa? Ne fa una questione di dire tutti via, cioè la distruzione, che poi la tabula rasa, che è un discorso che poi porta a che cosa? Sì, a questo, ma d'altronde cosa vogliamo fare? Andare avanti ancora con loro? Ma con loro, cioè lei dice loro, vuol dire mettere dentro tutti. Questa classe politica ha fallito. Non lascia spazio a chi emerge, vedi Renzi, vedi tanti altri, no? Abbiamo ancora persone che non hanno mai fatto battuto un chiodo nella loro vita, hanno fatto solo politica e non conoscono la realtà, ma si caricano nella realtà. Luciano, stia con noi, è molto chiara la sua analisi, è molto impietosa. Matteo Orfini, guardi che tra l'altro sono molto più diffuse di quelle che sono uno, due o tre telefonate, l'idea... Ma diciamo, a parte il fatto che sto in Parlamento da sei giorni e quindi diciamo faccio fatica a farmi carico di tutte le responsabilità di vent'anni di storia, ma comunque io capisco, figuriamoci, la rabbia, la frustrazione, lo scoramento. Dico solo che diciamo accettare l'idea che siano tutti uguali è questo che dà fastidio, nemmeno di individuare le soluzioni. Cioè la vicenda degli esodati ad esempio è una vicenda drammatica che come dire è nata per un errore del governo Monti, che per una volta, guardi, fu subito segnalato dai partiti che erano in Parlamento, la maggioranza, però appoggiato, governo, però tutti appoggiato. E due, non solo, no, e se una parte non purtroppo ancora la totalità della questione è stata risolta, è per il lavoro che si è fatto nell'ultima fase del Parlamento. Sì, però appoggiato. Comunque la rabbia c'è. Io devo chiudere qui. Senatore Verro, non l'ho toccata la questione, ma in 10 secondi aspettiamo ancora che lei si dimetta dal CDA della RAI. Il quadro politico è talmente confuso che francamente aspetta un po', qualche giorno di riflessione in più non guarda. Perché lei è senatore del PDL, CDA della RAI, cariche incompatibili, però insomma ha detto che lascia il CDA della RAI, ma giustamente dice chissà se poi lascia il CDA della RAI poi si va a rivotare, meglio stare un attimo così coperti. Va bene, ci fermiamo, vi ringrazio, do la linea a Simone Spezia che continuerà su questo, grazie a Matteo Orfini del Partito Democratico e a Verro, del senatore Antonio Verro del Popolo della Libertà. Allora, lunedì non ci siamo, è Pasquetta, quindi non ci saremo. Ci rivedremo martedì. C'è Miriam Lucchetti che esulta e vi saluta con questo, insieme a Elisabetta Fusconi, a Valentina Magri, al nostro alpino Peter Bescapè. Ci trovate sul profilo Twitter Alino Milan, sono io, e ci ritroviamo martedì alle 6:30. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica.